ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Funziona più di ogni medicina. Per le città è la migliore terapia. Della fase 2, lei è la regina. Pianifica, salta in sella e via. Alessandro Ricci, la fase 2 per il verso giusto. Buon pomeriggio, buona domenica. Bici, insomma, protagonista del post lockdown, della fase che stiamo vivendo. Si sta effettivamente andando in questa direzione, sono stati anche approvati dal governo nuovi incentivi per l'acquisto delle bici elettriche, sono state introdotte modifiche del codice della strada, misure a favore della ciclabilità, ma sappiamo insomma che la strada è ancora lunga, soprattutto in alcune città del nostro paese. Ma la bici, come sappiamo, non conviene solo dal punto di vista sanitario, sociale, non ha solo effetti benefici sul traffico, sull'inquinamento, ma conviene anche dal punto di vista economico. E ci sono cifre, ci sono numeri che sono stati messi nero su bianco da uno studio: costi e benefici sociali degli scenari della mobilità post lockdown Covid-19 in Italia, frutto di una iniziativa congiunta dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e dell'Osservatorio della Bike Economy. Allora saluto due ospiti, buon pomeriggio, Gianluca Santilli, presidente dell'Osservatorio sulla Bike Economy. Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. E l'ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Jos Flamand, buon pomeriggio. Buon pomeriggio signora a tutti gli ascoltatori. Allora ambasciatore, ci può raccontare com'è nata questa iniziativa e qual è appunto la vostra collaborazione con l'Italia da questo punto di vista? Certamente, con piacere. L'iniziativa è nata per un motivo duplice. Dall'anno scorso abbiamo riscontrato un interesse sempre crescente da parte di vari comuni e regioni italiani per l'expertise olandese nell'area della mobilità sostenibile, soprattutto per i progetti relativi alla ciclabilità. E insieme a questi partner italiani abbiamo già organizzato alcuni viaggi di studio in Olanda. Per 2020 erano stati pianificati altri viaggi di studio di regioni e comuni italiani e Paesi Bassi per vedere una serie di progetti ritenuti riusciti. Purtroppo Covid-19 ha reso impossibile questi viaggi di studio. Allo stesso tempo, mai come prima, Covid ha anche reso evidenti in praticamente tutto il mondo la necessità di ripensare la mobilità. Ecco, ripensare la mobilità sicuramente in tantissime città del mondo europeo, insomma, stiamo vedendo che si stanno portando avanti dei piani anche per realizzare queste piste ciclabili, pop-up, insomma, alla bicicletta è stato riconosciuto un ruolo importante per quanto riguarda soprattutto la mobilità urbana e sicuramente, Gianluca, l'Olanda è pioniera, no, in questo senso. Assolutamente, ed è per questo che noi, e lo dico con grande orgoglio e grande piacere, lo scorso anno abbiamo sottoscritto con l'Olanda, quando dico noi all'Osservatorio Bike Economy, un accordo di partnership, perché l'Olanda appunto è sicuramente paese guida da questo punto di vista, e dall'altro lato l'Osservatorio organizzava, come sapete, molti convegni e molti studi su questo tema, e quindi unire le forze, e visto che avevamo anche deciso che poi la società assieme alla quale abbiamo realizzato questo studio, quale partner, ci è sembrata la cosa più naturale quella di dare un po' un'accelerazione, perché come abbiamo visto nelle grandi città, questo tipo di meccanismo legato alla nuova mobilità era già partito da anni. Londra investe con la congestion charge oltre 300 milioni di sterline ormai da 5-6 anni. Parigi ha realizzato circa 1000 chilometri di ciclabile, ha stanziato soldi per farne altrettante. New York, che era la città più impensabile da questo punto di vista, ne ha realizzati 600 e aveva già stanziato oltre $1 miliardo per la mobilità smart. L'Italia era rimasta un po' al palo, devo dire, perché tutti questi progetti dormivano nei cassetti. Il Covid ha fatto un po' da acceleratore, ma quello che dico sempre e voglio ridire anche qui è che la logica non deve essere una logica di natura emergenziale, cioè la nuova mobilità ci deve essere a prescindere. Le città erano ormai arrivate a un livello di invivibilità assolutamente inaccettabile. Sappiamo tutti che peraltro il parte dei contagi sembrerebbe imputabile all'inquinamento. Cioè, ci sono tutta una serie di motivi per cui le città devono essere ridisegnate, devono essere rigenerate e riqualificate. E quindi tra i pochi vantaggi che ci dà il Covid, sicuramente uno è questo. Ed è per questo che quindi abbiamo avviato questo studio. Ecco, allora entriamo un po' nelle cifre di questo studio. Sinteticamente, che cosa ci dice questo studio anche dal punto di vista dell'impatto economico? Ma lo studio dice intanto due cose molto semplici, e cioè abbiamo ricreato uno scenario del non fare e quello invece del fare. Se non si fa nulla, il costo è di circa 20 miliardi di euro. Se invece si fa, ovviamente se si fa in modo corretto, se si fa con quelle che sono le logiche della mobilità smart e quindi non, come dicevo, degli interventi così di emergenza, e invece il guadagno è di 20 miliardi, cioè quindi siamo da un meno 20 a un più 20. E questi numeri giustificano quello che stanno facendo le grandi metropoli. Londra ha stanziato 2 miliardi di sterline, che sembrerebbero una cifra enorme, però consideriamo con i 20 miliardi che emergono da questo studio, beh, capiamo che Londra ne guadagnerà 18 e non che ne spenderà 2. Perché oggi come oggi la nuova mobilità potrà fare la differenza tra l'andare a mettere una sede di una multinazionale in una città piuttosto che non farlo. L'aumento dei valori della stessa città dipenderanno anche da questo. Io non scelgo una città dove, come capita a Roma, solo Bogotà mi supera per tempo che passo in auto. Quindi oggi questo tipo di temi sono temi che devono essere prioritari sui tavoli di ogni amministrazione, ma spesso le amministrazioni non hanno le competenze, non hanno le conoscenze, e si vede la mobilità come se fosse qualcosa legato esclusivamente all'andare in bici è bello, è più bello che andare in macchina, ma non è assolutamente così. Lo studio dice che questa previsione, no, Gianluca, di cui anche parlavi tu, è realizzabile solo se c'è davvero una volontà politica che porti a voler modificare drasticamente, no, la mobilità nelle nostre città, cambiare un po' le regole, le abitudini degli italiani. Chiedo a tutte e due, parto da te Gianluca, tu vedi che c'è questa volontà politica e come giudichi anche le misure del governo che sono state approvate nel decreto di lancio? Io da un lato temo che la volontà politica sia solo all'inizio, nel senso che per ora deriva da certe suggestioni, da informazioni che non sono sostanzialmente compiute, però dall'altro lato lo vedo anche proprio nel mio caso, nell'interesse che questi temi suscitano, quindi a livello di media, a livello di stesso dell'industria, diciamo così, penso che ci sia grande voglia invece di capire bene questo fenomeno, cioè si comincia a percepire che il fenomeno esiste, che è molto importante, che ha quasi solo risvolti positivi, ma non lo si conosce. Sì, non si quindi percepisce soprattutto l'aspetto economico, no? Sembra sempre un po' la bici un giocattolo. Sì, un passatempo. Un passatempo. Con cui andare appunto la domenica con i figli o poco più. In realtà la bici non solo è un mezzo di trasporto, ma è un mezzo di trasporto dietro il quale girano decine e decine di miliardi. Se una città è smart, come dice la parola, attira molti più investimenti e la mobilità è la chiave della città smart. Io ho fatto su me stesso questo tipo di esercizio. Prima per Roma giravo in macchina, però mi andavo a fare 100 km sia il sabato che la domenica tra Castelli Romani e le zone, perché mi sembrava impossibile l'idea di poter girare per Roma se non con l'auto. Da quando sono montato su una bici a pedalata assistita, con la quale all'inizio peraltro facendo il ciclismo sportivo mi vergognavo pure un po', non sono più sceso. Io sono convinto che se chiunque avesse, come dire, un po' di curiosità lo provasse, staremmo in tantissimi in bicicletta, che significa anche meno macchine. Quindi chi deve prendere la macchina è pure più contento, perché avrebbe meno traffico. Ambasciatore, lei la vede questa voglia, questo interesse sia da parte delle istituzioni, sia da parte dei cittadini italiani? Sì, certo, si vede aumentare anche il numero della gente che usa la bici in un modo, diciamo, di oggigiorno. Per esempio nei Paesi Bassi siamo 17 milioni, però 23 milioni di bici si usa per il trasporto casa-lavoro, 80% della gente lo fa ogni giorno. Anche il numero delle e-bikes, la pedalata assistita, sta crescendo. C'è l'esperienza molto positiva, aiuta la mobilità in città, alla vivibilità, alla sanità, allora direi tanti esempi positivi da studiare, da usare. Bene, grazie mille. Allora, insomma, con questo auspicio, con questo ottimismo ci salutiamo. Gianluca Santilli, presidente dell'Osservatorio sulla Bike Economy, grazie, buon pomeriggio. Grazie a te e a tutti quanti i vostri radioascoltatori. E grazie all'ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Jos Flamand. Grazie a lei e alla prossima, spero. E noi ci fermiamo qui, se volete potete sempre riascoltarci su podcast. Grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica. Ruta Libera torna la prossima domenica, sempre dopo le 16. Buona bici!